Attraversammo la porta dell'Edipilon. Mi sentivo distrutta. Mentre percorrevamo la via panatenaica nell'Agorà, Eudosso, prima di recarsi da Ofione, volle condurmi al portico Pocile. Passammo davanti al grande blocco di marmo dove gli arconti prestavano giuramento e alle stele con le leggi di Atene, leggi che Platone voleva ancora più dure e spietate. Sopra le lastre di marmo troneggiava una gigantesca statua di Temi, la dea dell'ordine e della legge. Sotto il portico colorato incontrammo Diogene. Se ne stava seduto su un gradino di marmo, solo in disparte, leggendo un libro. Il mio amico astronomo dovette scuoterlo a una spalla, tanto era assorto nella lettura, mentre un sole cocente premeva sulla sua testa coperta solo dalla chiama bianca. Sollevò gli occhi, un cenno di saluto a Eudosso, poi si soffermò a guardarmi. Peggio di quello che potevi immaginare, vero Assiotea? Mi fece cenno di sedere accanto a lui, lo assecondai. Come il mio maestro Antistene. Io cerco di tenere lontano da me i libri, la cultura, perché penso che il fine che deve cercare di raggiungere l'uomo sia una vita in armonia con gli esseri umani e con la natura, con la pratica quotidiana. Ma ogni tanto mi concedo un'eccezione. Il buon Fione aveva alcune copie di questo libro, fresco di stesura e di copiatura, e mi ha consigliato di leggerlo. Sono le leggi di Platone. Non si sa quante copie ne abbia fatto preparare. Se vai in giro per l'agorà, lo smerciano tutti, i venditori di carrube, di pesce e di vino, tutti. Sollevò il papiro ponendolo davanti al volto. Questo libro è l'addio definitivo alla terra, all'umanità. È la consacrazione della religione, degli dèi, delle superstizioni. Bisogna saper leggere questi fogli, Assiotea, capire qual è il vero scopo che si prefigge quest'uomo. Io ce l'ho ben chiaro, ragazza mia, ma vorrei che anche per te lo fosse. I suoi occhi ardenti sembravano volersi conficcare nei miei. Platone e Aristotele sono uomini estremamente pericolosi, Diogene. Rappresentano un grave pericolo per l'umanità intera. Non abbandonavo i suoi occhi. Non possiamo pretendere che la povera gente che sfilerà nella processione fra pochi giorni, incensando gli dèi dell'Olimpo, sia in grado di sapersi difendere da questi libri, da questi uomini. E quindi. Visto che ti hanno permesso di frequentare l'Accademia, devi resistere per conoscere i loro veri progetti. Non sei sola, accanto a te a Eudosso. E sollevò gli occhi sul nostro amico che ci ascoltava con attenzione. C'è Eraclide, che a detta di Eudosso è una persona seria, sana, e poi c'è la tua amica. Non sei sola, Assiotea. Fatti valere, mettili in crisi con le tue riflessioni, fai scoppiare nelle loro menti le contraddizioni in cui vivono. Solo nella loro mente, però. Perché quella è gente che attorno al cuore ha tessuto mantello con fili di sterco e ormai non sentono più la puzza, il fetore che emanano i loro battiti. Mi afferrò le mani con le sue, trasmettendomi energie nuove. Io non mi muoverò da qui nei prossimi mesi. Ogni sera ti aspetterò qui al portico dei filosofi. Sono con te, Assiotea. Anch'io combatto per un mondo migliore, più giusto, in cui non esistano più queste maledette differenze. Il disonore della schiavitù, l'infamia di come viene classificata e trattata la donna. Cercava di trasmettermi il suo fuoco con quegli occhi ardenti. Se non ci proviamo noi a cancellare questa vergogna, nessuno lo farà. Antifonte e Antistene ci hanno provato e hanno fatti sparire assieme ai loro libri. Lo interruppi assalita da un'ansia nuova. Da quanto tempo vivi ad Atene? Lasciò libere le mie mani. Da oltre 30 anni. Lasciai Sinope che ero ancora giovane. Allora dovresti aver conosciuto i filosofi della scuola abderita, Leucippo e Democrito. Sorrise amaramente. Mi stupisce che qualcuno ancora ricordi i loro nomi. La stessa fine, ragazza mia. Li fecero sparire, bruciando tutti i loro libri. Leucippo non l'ho conosciuto di persona, ma so perfettamente chi era. È stato il maestro di Democrito, nonché il fondatore dell'atomismo. Diogene, hai mai sentito parlare di un libro di Leucippo intitolato Il Grande Ordinamento? La mia ansia doveva essere visibile. Aggrottò la fronte, poi tutto il volto si aprì. La sua opera più importante, il trattato sull'atomismo. Il Grande Ordinamento, certo, me ne parlò Democrito. Il cuore mi batteva forte. Allora tu l'hai letto, ma tu hai conosciuto Democrito? Com'è possibile che nessuno ne sappia niente, nemmeno Ufione? Quando il libraio giunse ad Atene e Democrito era già sparito, sì che lo conobbi, aveva 90 anni, studioso e filosofo eccezionale e grand'uomo. Come scindere le due cose? Platone, modesto filosofo, piccolo uomo, i conti tornano. Oh, Democrito. E lui lo diceva: tutto quello che so lo devo al mio maestro Leucippo, al suo grande ordinamento. E serrò gli occhi come a voler rivivere quei momenti. La realtà, il tutto noi, le montagne, i mari, i pesci, gli uccelli, i persiani, i macedoni, gli elleni, siamo tutti costituiti di atomi organizzati nel vuoto. E l'eternità è una finzione. Non esiste ragione divina, non esistono dei. L'anima è nient'altro che il corpo, oppure possiamo dire che il nostro corpo è l'anima. E si lanciò in un racconto appassionante che sentivo mio, che spiegava i timidi pensieri che temevo di manifestare persino a me stessa. Il sole picchiava implacabile sui nostri volti, ma sia io che Eudosso restammo avvinti alla voce di Diogene, che per noi era musica, canto, scroscio d'acqua sorgiva. Mi disse di non aver mai letto il Grande Ordinamento, ma che sicuramente Democrito ne aveva delle copie con sé. Credo che l'abbiano ammazzato, Assiotea. Quel gran vecchio si era affezionato a me e alle mie idee. Mi aveva proposto di fondare una scuola qui ad Atene, io e lui, la scuola degli atomisti. Avevo messo a disposizione il piccolo edificio del Cinosarge, vicino alla porta di Acarne. Lui si sistemò là, con tutte le sue cose, compresi i suoi libri. Quella sera tornai al Cinosarge accompagnato da due giovani studiosi che lo volevano conoscere e a cui avevo parlato di lui, ma era sparito con tutta la sua roba. C'erano tracce di lotta, cocci rotti, sangue. Chiesi al magistrato di indagare. Mi dissero che proprio il giorno prima Democrito era stato agli uffici dei Meteci dell'Agorà e aveva pagato regolarmente la sua tassa di straniero residente fino alla fine dell'anno. Democrito non aveva alcuna intenzione di andarsene da Atene. Fu fatto sparire, a causa di un po' di monete d'oro che aveva con lui, dissero. Ma i ladri portarono via solo i libri. Lasciarono al Cinosarge un po' del suo sangue e le monete d'oro. Questa è la storia di Democrito Assiotea. Da allora nessuno ha più sentito parlare dei suoi infiniti mondi, di Leucippo e dei loro ordinamenti. Dovette accorgersi della mia emozione. Fu Eudosso a riassumergli la mia storia. Ragazza mia, non so cosa augurarti a questo punto. Ho paura che chi verrà in possesso di quel libro correrà seri pericoli. Diogene sbatté nervosamente le palpebre. Tu hai voluto entrare nell'Accademia di Platone perché speri di trovare quel codice e il segreto che racchiude. È così? È uno dei motivi, certo. Dopo questa chiacchierata, però, comincio a pensare che il segreto del grande ordinamento siano le sue stesse teorie, così rivoluzionarie, che bastano a giustificare la morte di alcuni per divulgarle o di altri per soffocarle. Proprio così, Assiotea. Credo proprio che l'atomismo di per sé basti avanzi per scatenare rivoluzioni e repressioni. E scuoteva il capo amareggiato. Ma ci sono anche le statuette di marmo. La voce squillante di Eudosso ci colse di sorpresa. Il nostro amico era rimasto in piedi per tutto quel tempo. Ci fissava con occhi ardenti di curiosità. Il volto di Diogene liberò un'ombra di perplessità. Mi hai raccontato la storia di quelle statuine, ma sinceramente questo tuo interesse credo sia a dir poco esagerato. Un alone di inquietudine ombreggiò la faccia gioviale di Eudosso. Non mi avevi mai raccontato della fine di Democrito. Troppe morti. Troppe sparizioni. Non vorrei che un giorno accadesse anche a me e che solo Caronte potesse beneficiare delle mie confidenze. Dunque, una cosa che non ho mai detto a nessuno è che molti anni fa, all'epoca della rivolta degli schiavi dell'Aurio, venne trovata la prima statuetta e assunse un significato religioso. Rappresentava la dea della libertà e si diceva che venisse dalla casa del cielo. Era il simbolo della libertà, la speranza della fine della schiavitù. All'Aurio la veneravano. Fu proprio la statuetta a dare agli schiavi la forza di insorgere. Volete sapere dove la leggenda narra che fu trovata? Si grattò alla barba corta e ispida, non molto lontano dal Monte Olimpo. Dovette leggere sul mio volto e di Diogene la mancanza di curiosità, mentre lui ci raccontava la storia delle sue statuine con aria grave, ma proseguì imperterrito. Voi due siete razionalisti come me, ma ho paura che tenete le vostre forze ingabbiate, non permettendo mai alla vostra mente qualche piccola fuga. Dunque, e venne a inginocchiarsi sul gradino sotto a quello dove eravamo seduti io e Diogene, dalla bisaccia estrasse il panno, lo svolse, apparve una delle statuine che aveva trovato Demos. Tutte le altre sono all'Accademia, in una sala riservata agli studi astronomici e alle cartine geografiche, ma questa ho deciso di portarla sempre con me. Mentre annuivo, Eudosso protese le mani che racchiudevano la statuina, mettendola sotto gli occhi del vecchio filosofo. Osservala attentamente, Diogene. Guarda soprattutto il suo profilo. L'artista non è della nostra epoca, forse appartiene a qualche millennio fa. Non era certo un Fidia, e tuttavia è riuscito ad afferrare l'essenza della creatura che posava per lui. Guarda che purezza dei lineamenti, il profilo, gli occhi di fanciulla spalancati davanti a un cielo stellato, le labbra dischiuse. Diogene, guarda bene, per una volta nella tua vita apri la gabbia, libera un po' la tua mente. Un tremolio nella voce, nelle mani. Poi Eudosso lasciò la statuetta nelle mani del vecchio con una delicatezza incredibile. Mi prese il capo fra le sue mani, mi forzò a girarmi e a rigirarmi mentre Diogene sollevava l'oggetto di marmo. Per Dio, il collo, gli orecchi piccoli, il naso, gli occhi, ma soprattutto l'espressione del volto. La meraviglia di queste due giovani è la stessa. Diogene tolse le mani di Eudosso dal mio volto. In una mano stringeva la statuina, con l'altra sfiorava il mio viso con lievi pressioni, affinché ruotasse il capo e non smetteva di fissarmi, con una luce nello sguardo che gli faceva risplendere tutto il volto. Oh, dea della ragione che non esiste. Oh, Demos, compagno mio, torna presto per salvarmi dalle grinfie di questi due vecchi rincitrulliti. E allontanai dal mio volto le dita di Diogene. Proprio in quel momento, dietro le colonne, nell'ombra del portico, passava un gruppo di uomini vocianti con un clamore inconsueto. Uno di loro si girò verso di noi e mi rimase impressa nella mente l'espressione stupita della sua faccia liscia e paffuta. Era come se lo conoscessi, ma non riuscivo a ricordare chi fosse. Incrociai i suoi occhi vigili, poi venne trascinato via dal gruppo. Diogene mi porse la statuetta. Feci finta di guardarla con attenzione. Stimavo troppo i miei amici per ridere apertamente di loro, ma era stata una giornata terribile per me e non so perché quella faccenda della statuetta mi stava provocando una voglia irrefrenabile di ridere. Non trovai di meglio che confessarglielo. Capite? Un filosofo alla guida della scuola cinica e un astronomo, entrambi razionalisti, entrambi con i capelli bianchi impegnati nella battaglia tra il bene e il male. Entrambi stanno cercando di contrastare le forze oscure dell'Accademia, che per sottomettere i popoli usano gli dèi e le superstizioni. Ebbene, le stesse due persone si imbarcano in una storiella di statuine e somiglianze. La somiglianza fra una ragazza ribelle di Fliunte e una statuina trovata, udite, udite, dalle parti del Monte Olimpo. E mi misi a scuotere il capo mentre riavvolgevo il povero oggetto di marmo nel panno che penzolava tutto triste da una mano di Eudosso. Esplosi in una risata liberatoria e l'astronomo scrollando il capo. Dunque, somiglianza o no, statuine come queste, tutte simili tra loro, tutte ispirate alla stessa fanciulla, circolano in segreto da molti anni tra gli schiavi. Sono stati loro a trovarli nelle miniere. Io ne sono diventato un collezionista, ma oltre a comprarle, cerco di parlare con chi le ha trovate. Ho cominciato a comporre una mappa con le varie località in cui sono state trovate e domani a Siotea, all'Accademia, te la mostrerò. Mentre Odosso si accingeva a continuare, con la coda dell'occhio notai un gruppo di persone che attraversava il portico. Mi girai. Nell'ombra parecchi uomini si allontanavano nella direzione opposta a quella del gruppo anteriore. Non si sentiva il clamore di prima, attesi. Incollai gli occhi a quelle teste. Aspettai fino a quelle colonne di marmo non le nascosero alla mia vista. Ma proprio in quell'ultimo istante di visibilità, uno di essi girò il capo e fu investita dall'espressione stupita e turbata della sua faccia liscia e paffuta. Incontrò i miei occhi che lo attendevano. Si girò di scatto e scomparve. Eudosso, Diogene, potrebbe esserci qualcuno che ci spia. Andiamo via di qui. Ci vediamo ad Aufione, dividiamoci, ognuno per conto proprio. La mia ansia doveva essere ben manifesta. I miei due amici non mi fecero domande. Annuirono, ci separammo. Mi misi a correre e tornai verso la porta del Dipilon. Mi intrufolai in mezzo ai gruppi che stavano provando per la processione. Salì il piccolo poggio sino al tempio di Efesto. Feci un largo giro alle spalle del Bolletherion e della rotonda per poi affrontare via dell'Areopago e correre verso la libreria. Stavo ultimando il racconto della giornata quando giunsero Eudosso e Diogene. Andammo a sederci al fondo dell'edificio in mezzo a due file di ripiani stracolmi di libri. Eudosso si fece dare da Ufione un calamo e alcuni fogli di papiro. Le uniche carte geografiche esistenti sono frutto del mio lavoro, ma sono approssimative. Per disegnarle mi sono aiutato con le poche che si trovano al Pireo. Le mappe geografiche più dettagliate dovrebbero essere quelle custodite negli arsenali dei porti militari di Zea e Munichia, ma non sono mai riuscito a farmele mostrare. Segreto militare. Inutile dirvi che disegnare le mappe delle Elade e di tutte le terre che la circondano è un'operazione praticamente impossibile. Solo nel Mare Egeo ci sono centinaia, forse migliaia di isole, ma la fascia che mi interessa è la Tessaglia, la penisola calcidica e la Tracia, almeno per adesso. Guardate, finora le statuette sono state trovate nel Monte Termon, nel Monte di Saron, quindi a Eion, nel Pangeo, a Madenocrorio e infine Taso Abdera, la patria di Democrito. Gridai emozionata. Eudosso alzò gli occhi dal foglio. La patria della scuola, Abderita. Esattamente. Poi, girandosi improvvisamente verso Diogene, sei sicuro che coloro che fecero sparire Democrito dimenticarono di prendere le sue monete d'oro? Non è che il filosofo Abderita le aveva consegnate a te chiedendoti di nasconderle? E sei sicuro che fossero delle monete invece che delle rocce d'oro? Diogene prese a sorridere amaramente. E tu come fai a sapere che erano rocce d'oro? Perché in ogni luogo dove sono apparse le statuine, prima o poi sono sempre saltate fuori delle miniere d'oro. E Abdera che c'entra con tutto questo? Domandai io sempre più incuriosita. Eudosso mise il foglio di papiro sotto il mio naso. Questa è Abdera. Di fronte all'isola di Taso, dove anticamente c'erano delle miniere d'oro, mentre adesso, proprio accanto ad Abdera, ci sono le più ricche miniere d'oro del mondo, le miniere del Pangeo, attualmente in mano a Filippo il Macedone. E rivolgendosi a Diogene, le pietre d'oro che Democrito aveva con sé probabilmente appartenevano a un filone che doveva aver scoperto lui e che forse voleva sfruttare per creare qui ad Atene la grande scuola razionalista assieme a te, Diogene. Il vecchio filosofo parve schiacciato sotto il peso di quelle parole, occhi umidi per l'emozione. Povero amico Democrito. Era un sognatore, come Assiotea, lo stesso ardore negli occhi. Aveva trovato l'oro in una caverna su un terreno di sua proprietà. Prima di rivelarlo a qualcuno, venne qui ad Atene, parlò con me, ma non fece in tempo a realizzare il suo sogno, portando nella tomba il segreto. Gli hanno strappato tutto, aggiunsi io commossa. La vita, i suoi libri, le sue idee e il grande ordinamento di Leucippo. Fu Ofione a chiedere a Diogene se Democrito gli avesse confidato almeno con quali persone era venuto in contatto. Mi raccontava tutto, veniva spesso al portico dei filosofi e lì parlò un po' con tutti gli uomini di cultura di Atene. Naturalmente si recò anche all'Accademia. Si intromise Eudosso. In quel periodo non mi trovavo ad Atene, ma di una cosa posso assicurarvi. Fu Fu come se Democrito non avesse mai varcato la soglia dell'Accademia. Mai una sola volta ho sentito fare il benché minimo accenno a lui o alla scuola abderita. Dunque, torniamo a questa mappa geografica. Guardate, vi ho già detto che non è precisa, ma più o meno ci siamo. È una linea retta. Se la mia ipotesi è giusta, basta seguire la linea a ponente oppure a levante, recarsi alle pendici delle catene montuose attraversate da questa retta e avere molte possibilità di trovare delle miniere d'oro. Protese le braccia energicamente. Il mistero delle statuine, come lo vedo io, da qualche parte deve esserci un luogo, un tempio, una casa del cielo, con quelle statuine che indicano le località in cui si trovano le miniere d'oro, una specie di mappa. Ma alcune statuine sono state trovate anche a Laurio o a Eraclea, miniera d'argento, di piombo. Quindi potrebbe esserci più di una mappa, diciamo una per ogni metallo prezioso. Qualcuno nel passato ha scoperto questo tempio, ha prelevato le statuine e le ha seppellite nei luoghi dove dovevano esserci le miniere. Le statuine sono poi state trovate dagli schiavi che ci lavoravano, i quali hanno attribuito ad esse dei significati religiosi, facendole assurgere a simbolo di libertà. Fu Ofiona a concludere, finché un giorno, in un'assemblea dell'Apnice, una ragazza di Fliunte fece la prima arringa pubblica per l'abolizione della schiavitù e mi fissò intensamente con i suoi grandi occhi azzurri. E quando questa ragazza fu mandata alle miniere dell'Aurio, gli schiavi minatori si accorsero che il volto delle statuine era simile al suo. E probabilmente la voce cominciò a rimbalzare di miniera in miniera. E forse la speranza si accese nel cuore degli schiavi, perché essi credevano che tutto questo non fosse casuale. Eudossa annuiva, Ofiona approvava, entrambi tenevano i loro occhi sdolcinati nei miei. Mi rivolsi a Diogene implorando: "Ti prego, di qualcosa di razionale. Ah, oh, se ci fosse qui Demos! Lui ha trascorso la vita nelle miniere e lui ne ha trovate tante di statuine. Ci penserebbe lui a farvi ragionare." Eudosso sorrise con complicità. Ieri, prima di partire, Demos mi ha sussurrato queste precise parole: "Stalle sempre accanto, proteggila. Assiotea potrebbe rappresentare la speranza di libertà per tutti gli schiavi, soprattutto per quelli delle miniere." Diogene non mi dette il tempo di intervenire. "Calmati, Assiotea. Il fatto che forse tu sia diventata un simbolo deve riempire di gioia quel tuo cuore che forse ne sa più della tua mente, per Dio. Cosa cambia per te? Tu stai lottando realmente perché la schiavitù venga abolita, con o senza statuine? Non mi piace che si parli di me. Mi liberai dalle sue mani. Presi il foglio di papiro. Lo guardai con attenzione. Allora, nelle puzzolenti copie del grande ordinamento non c'era nascosto alcun segreto, tranne le teorie sull'atomismo." "Probabilmente è così, figlia mia," tuonò la possente voce di Ofione. "L'atomismo rappresenta una forza rivoluzionaria più spaventosa di un terremoto." Mi alzai, feci per salutare i miei amici, ma Eudosso non mi permise di andarmene da sola e mi accompagnò. Il sole aveva già preso a piegare verso il Pireo, verso il mare, nella direzione di Corinto, verso il fiume Asopo, verso Colle Lupo.